KK, va bene, comunque, per Salvatore, beh, sentito dopo tanto. E niente, arrivi bassino da me, Santiago 7, 8, non di più, radio anche bassa, non lo so perché, evidentemente non sei favorevole a me, io l'antenna l'ho tolta da lì, l'ho messa da un'altra parte, quindi sicuramente si è abbassato il segnale, va bene, avanti Riccardo. Io qui ho il lavandino e non lo so, non so cosa dire, ma cambio per qualcun altro. Ciao Salvatore, dal tuo vicino, siamo molto vicini. Uè, anche con te è qualche annetto che non ci sentiamo, Kappa, ci siamo anche visti in verticale lì a piazzare i segni, se ti ricordi. Lo so, ma ne è passato di tempo. Lo credo. Vabbè, là, io passo in QRT che mi devo guardare un po' di TV. Salutoni a tutti, là. Ciao Natalia, un po' troppo mosso ti sento ultimamente, devi essere più cattivo, più performante, dai, ciao Natalia, le prossime. C'è qualcuno che sta cercando di entrare, avanti chi vuole entrare su canale di... Ciao Gio Natale, alle prossime. Oh, c'era qualcuno, hola, non ho capito chi sia, avanti se vuoi entrare. So. Sai, ma veramente, c'hai la voce, cavolo, sembri dall'oltretomba, ti ricordavo molto più brioso, a dirti la verità, sinceramente, vabbè che gli anni stanno passando per tutti, anche per me ovviamente, ma avevo un altro ricordo. E vabbè, purtroppo mi sono successe delle cose e non c'è da stare allegri, vabbè dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao Natalia, alle prossime, dai, c'è sempre questa portata, sta cercando di entrare, avanti chi vuole entrare sul 10. Ma ordina futti, vabbè, ma lascia perdere, se vuole entrare entra, siamo qua, sembra che stiamo pregando chissà che cosa, ma se la prendano nel culo. Ciao Natalia, buonasera, ben ascoltato, alle prossime, buona cena, buon tutto, saluti a casa. Avanti, chi c'è rimasto qua? Io, Roberto, Salvatore, Riccardo, così è. Ehi, Daniele è andato via poco fa, c'era Antonio Riserva, non so se c'è ancora, l'ho rilasciato un paio di volte, lasciamo un secondino di bianco per Antonio, se no riprendi tu Salvatore. Ok, allora vai tu Salvatore. Sì, scappa. Ciao Antonio. Pardon, stanno suonando alla porta. Scusatemi, riprendo tra poco. Ehi, vai Riccardo. Vai avanti io, come ho detto, forse non so se è sovrammodulazione ormai di questo periodo che stavo salutando a Natalino, buona carica, buon tutto se sei ancora all'ascolto. Diciamo siamo rimasti pochi ma buoni, come si dice. Ok, riprendi Claudio. Ehi, vabbè, ma chi vuole entrare entra, cazzo, ogni volta devi pregare la gente a entrare. Chi vuole entrare siamo qua, chi non vuole entrare ci sono altri 39 canali, ma siamo in affutti. Ogni volta, avanti chi vuole entrare, basta entrare se vogliono entrare, se no si rabbigliano in culo, mi parole povere, non hai capito, me la futti nuda a me. Chi vuole modulare, modula, chi non vuole modulare, fa per il piace. E finiamo con questo cazzo di ecco, queste cose, queste magagne, ognuno roba entra come vuole, a me fastidio non me ne dà. Io sono una di quelle poche persone che ha usato di tutto, ha fatto di tutto, in radio e continua a fare di tutto, non me ne futti nuda. A chi non le piace, ti ripeto, ci sono altri 39 canali a disposizione, se ne fa un altro per i fatti suoi, va a modulare da un'altra parte, se no non la finiamo più, ogni giorno sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, ma futtidini. C'era un film da poco che hanno dato vivi e lascia vivere, e bisogna fare così, a me non me ne futti più nulla di nessuno. Chi sento lo sento, chi non lo sento dico non ti sento, basta, non me ne frega niente cosa stai usando, mettiti l'antenna, comprati la radio nuova, fai quello, fai chi su che ti piace, io se non ti sento non ci parlo, boh, basta, lo sai che è già successo, quindi io se sento rispondo, se non sento non me ne frega nulla, ok? Se no roba diventa monotona, vedi, poi la gente si offende, se ne va, è anche giusto che ci rimane male, cioè, ognuno ha quello che ha, se io ho un baracchino modificato uso quello, abbiate pazienza, non posso avere, tutti possono avere il K, possono avere una radio, poi proprio Massimiliano, Massimiliano è di una correttezza allucinante, mi dispiace, hai capito? È di una correttezza allucinante, perché tutte le volte che lui entra nel canale 10 è l'unico che se sta arrivando dal 45 e disinserisce l'eco e parla normale. Ce ne sono altri che fanno gli strafottenti, ma proprio lui no. E questo mi dispiace, capito? Perché veramente, non perché sia un mio amico, che è una persona che io stimo davvero tanto, ma è una persona correttissima, cosa che non fanno altre persone. Perché Ranieri è entrato nel canale 30, mi ha fatto gioco, e glielo dico in faccia se l'ascolto. È entrato nel 30 con l'eco, ne ha attaccato, mi ha fatto gioco, capito? Mi ha fatto sordo, eppure non gli ho detto niente. E può capitare, Robè, a tutti i dì. Non c'è problema, ma l'ho fatto come osservazione, non polemica. Ricordati sempre le polemiche, non le faccio, era solo una considerazione. Ho detto che non è necessario, quando siamo qua vicini, di utilizzare potenze, soprattutto potenze esorbitanti, perché poi qualcuno poi deve attenuare per ascoltarlo, se non riesce mai a sentirlo. E ho detto, a me non piace l'eco, poi se qualcuno gli piace ascolta, se nel momento io sono disturbato dall'eco spengo o mi sposto di un altro canale. Non ho mai fatto nessuna polemica, non era riferita a nessuno in particolare, era solo un discorso in generale. Ho fatto una battuta su di te, so benissimo che tu non ne hai, o se ce l'hai non l'hai mai usato l'effetto Licotta, giù di tu a livello di battuta. Ho detto, Micla, non ti voglio sentire, se no ti cancello l'amicizia, ma a livello di battuta tu sei libero di fare quello che vuoi, sei grande e vaccinata, e non sarà mica un mio parere e opinione a modificarti le tue idee. No, ma vabbè, ho capito che la tua era un'affermazione, ma per carità, però è una cosa che sta facendo traboccare il vaso, perché se ne parla da troppo tempo, capito? E poi è quella goccia che fa traboccare il vaso, e alla fine la gente che ha la radio, che le piace fare radio in quella maniera, non entra più, e questo mi dispiace. Ma dico, io mi riferisco a Massimiliano perché è una persona correttissima, che ha sempre fatto, ha sempre modulato, io una vita che lo conosco, sempre con il baracchino colto e modificato, però è l'unica persona corretta che ogni volta che entra a fare questo locale lo stacca, cosa che non fanno altre persone, questo ti voglio dire. Ho capito che non è riferito a Massimiliano, però, cioè, o questa storia finisce, oppure alla fine non c'entra più nessuno, perché a chi piace modulare così, bisogna accettarlo così, Robè, no? Non c'è niente da fare. Quella di non usare l'eco è una mia scelta, perché io ce l'ho l'eco, se voglio lo metto l'eco, ma è una mia scelta personale, non mi interessa e basta. Sai quante volte mi dicono, vieni 45, non ci vengo, non mi interessa, ma è una mia scelta personale, non è che odio l'eco, per carità, ma questa storia è da tempo che sta continuando, basta, se no la gente si stufa veramente, non c'entra più in radio, capito Robè? Ho capito che è una tua affermazione, a te non piace, come non piace a Giulio, come non piace a Tizio, Caio Semprugno, sono scelte personali, per carità, però se continuiamo a punzecchiare la gente in quella maniera, alla fine non c'entra più nessuno, tutto lì. Avanti Antonio Riserva, senza benzina. Rientro. Antonio Riserva, non riprende, riprendi tu, Sabato, avanti. Eia, eccomi qua. Pardon, scusate, ma c'avevo gente alla porta. Claudio, ti ho lasciato tranquillo e sereno e rientro e ti trovo imbufalito. Che è successo? Imbufalito io? Se mi imbufalisco io, non so se tu mi hai mai visto, però preferisco non imbufalirmi. No, un'affermazione che stavamo facendo con Roberto delle radio con l'eco, che è una cosa che dura già da tanto tempo, ogni volta che entra qualcuno con l'eco c'è sempre da dire qualcosa. È chiaro che poi alla fine diventa un problema, capito? Tutto qua. Assolutamente imbufalito io, guarda. Da un paio d'anni a questa parte, se c'è una persona molto tranquilla, sono io, come vedi. Nessuno mi sente, nessuno mi cerca, nessuno mi vede. Però in radio io ci sono sempre, a modo mio, ma ci sono sempre. E queste le, Sì, ma le stai facendo attività HF o hai ridotto? Ho tolto tutto, le antenne, c'è solo quella dei 6 metri e basta. Non mi interessa più, Sabato. Ho tolto tutto, ho tolto la 3 elementi, l'ho smontata e conservata. La 5 elementi è troppo in alto, non riesco a salire a toglierla perché non viene bene. Adesso appena rientra un mio amico che è una mezza scimmietta, appendersi gliela faccio togliere e conservo anche quella e basta. No, faccio a volte VEU e basta, Salvatore, non mi interessa. A me non mi è mai interessato, sappio, fare radioamatore a livelli alti, Io ho messo le direttive così, non so neanche perché li ho buttati via questi ultimi, però non mi è mai interessato. Io mi sono preso la patente e la licenza per la detenzione delle radio e per non rompermi le palle a nessuno, tutto qua. Però radioamatore a me non mi interessa farne, non ne ho mai fatto e quindi voglio morire. Ho capito. Beh, peccato, perché comunque anche per la posizione che hai lassù è, insomma, pregevole, è molto, molto interessante. Comunque è chiaro, sono scelte personali, ovviamente. Va bene, non so chi è rimasto, Claudio, io provo a Roberto, che ho segnato subito dopo di me. Vediamo un pochettino, Roberto, a te. Sì, ci sono, rilascia ritardino che è un po' in parcheggio, avanti Riccardo. A proposito di quella cosa, ecco, qualcuno dimentica l'etica e il rapporto di buon vicinato. Rapporto di buon vicinato, certo, bisogna accettare tutti, io accetto tutti, non ci sono problemi, però infatti, come ho detto prima, in certe situazioni secondo me è meglio evitare. Poi, se a me mi disturba, mi sposto in un altro canale dove non usano l'ecco, oppure, come problema, molte volte quando attacchi quest'ecco, Claudio, lo ribadisco, non si comprende nulla, molte volte vai a capire e dici cosa stai dicendo, è entrato poco fa una persona che ci conosciamo benissimo, che ho tanta stima per lui, non l'avevo neanche riconosciuto, non riuscivo a capire cosa stava dicendo, cosa hai detto, e alla fine ha detto scusa, mi sono lasciato il coso attaccato. Solo quella è la mia osservazione, perché quando siamo troppo vicini non li riesci a comprendere perché sono troppo amplificate e troppo ripetitive, solo per quello. Poi ti ripeto, se a me mi disturba la conversazione, c'è gente che non mi piace, o spengo o me ne vado in un altro canale, è solo quello. Robè, ho un problema anche di impianto, capito? Perché noi abbiamo fatto tantissime prove, io ti attacco l'amplificatore e mi ascolti bene, come mi stai ascoltando normale. Io adesso sono con 5 watt modulati 20 con il baracchino, perché sono col baracchino, c'è il bip anche, quindi sono col baracchino. Se dovessi attaccare l'amplificatore, mi ascolti normale come adesso? Dipende anche da cosa stai usando, da che impianto hai, da come ti sei organizzato. Molte volte anche quello è il problema, capito? Ma non è detto che uno non può attaccare l'amplificatore o fa. È chiaro che, come ha detto Riccardo, ci vuole anche il coso del buon vicinato. Se siamo tutte e quattro vicini, tutte e tre vicini, a me non mi interessa attaccare l'amplificatore, anche perché grazie a Dio mi difendo molto bene, come ha detto Salvatore, dalla mia posizione. Salvatore, è una scelta, hai detto bene, sì, è una scelta che avevo già preso inizialmente, poi mi è tornata, ho buttato via un po' di soldi perché li ho buttati via e basta, adesso mi sono stufato, ne ho tolto tutto. C'ho qualche filare giusto così a livello locale, ma giusto per avere un po' le radio in ricezione, per il resto non mi interessa. Mi piace fare le V e le U, però in questo periodo sono sempre qua in 27 e quindi non, anche perché sono un po' impegnato al QRL e perciò la sera me ne sto qua in 27 e le radio sono tutte spente, non me ne frega niente. Però hai detto bene, è una scelta personale. Peccato per la posizione che ho, potevo fare molto di più, ma non l'ho mai fatto prima, quindi non mi interessa farlo neanche adesso. Avanti Riccardo. Pensate, uscire con una bella radio è un'arte. Guarda, io l'ho sempre curata l'arte, lo posso dire a tutti, lo sai che io ho vinto il microfono d'oro, sì, tu lo sai, ce l'ho dentro l'armadio, io ho vinto il microfono d'oro nel senso come il tapiro, per la miglior modulazione in assoluto in 27 MHz. Ah, allora ho ragione. Hai ragione, sì. Io da sempre, dall'età di 14 anni, ho iniziato a modulare col microfono che tu c'hai, quello celeste, è una Fayette HB23 a Porto Torres. Io usavo la radio a casa di mia madre perché io abitavo a Porto Torres, non c'è mai stato nessuno in provincia di Sassari che aveva la radio come la mia, ma non Porto Torres, in provincia di Sassari nessuno, di tutti i CB che eravamo. Quando sono arrivato a Sassari ho iniziato a modulare con il K e me l'ho portato sino ad adesso, quindi ti sto parlando del 1985. 5, capito? La mia modulazione è sempre quella, a meno che non usi un baracchino come questo, però grazie a Dio mi difendo anche con i baracchini e con i microfoni vintage, e questo lo sanno tutti, ma non perché sia migliore degli altri, perché madre natura mi ha dato delle corde vocali molto molto belle, molto interessanti, dove riesco a andar bene con qualsiasi microfono, o per meglio dire, mi manca un microfono solo da provare, che è quello che dice Giulio Dollaro, che è il corno di bue. Se io dovessi usare un microfono a corno di bue esco bene lo stesso. Sì, ma allora all'epoca il G2 non era per tutti? Per pochi era, non ti preoccupare che era per pochi. Se dovessi fare i conti di tutto quello che ho comprato dal 1974 a oggi, forse avrei avuto qualche palazzina, capito? Qualche palazzino, forse anche qualche palazzo a 9 piani di mia proprietà, per tutti i soldi che ho buttato. Io comprai da Pinto Gescarpa il Turner più 2 da tavolo e lo pagai nel 1975, 120.000 lire, fate il conto. E non parliamo del K. Non parliamo di K, non parliamo di K, o di TL922 da Mario Notari, che l'ho fatto grande. Il primo K che ho comprato quasi 3 milioni mi è costato, e 5 milioni e 500 mila lire il TL922. Lasciamo perdere, non tocchiamo quei tasti che stiamo già salendo troppo in alto. Avanti, Salvatore. Vabbè, però non esistono hobby a costo zero, l'hobby è quella cosa bellissima che ti impegna e ti gratifica per il piacere che fai, ma è meglio che non faccia mai i conti di quanto ti viene a costare, perché se no non andresti neanche mai a pescare, perché con i soldi che tu ci metti per le esche forse è meglio se vai a comprartelo il pesce, però è impagabile il piacere che si prova tutto lì. Questo è il discorso degli hobby, di queste, e così sono le radio. Se uno si fa la somma di tutte le radio che compra e poi vende per prendersene un'altra e poi ci aggiunge un po' di soldi per prendersi un'altra ancora, e così con le antenne e poi con gli amplificatori e poi con i vari mazzi che ci aggiunge per migliorare audio, suono e cose varie, è chiaro che è meglio che non la faccia nemmeno il tentativo di fare una somma, perché già dopo i primi 10 valori che inizia a sommare penso che uno sbiancherebbe, per cui, però sono hobby, per cui sono belli, bisogna riuscire a non farsi prendere troppo la mano e ad avere un occhio al portafoglio, soprattutto quando si ha famiglia, tutto lì. Poi è un hobby sano, comunque io continuo a trovarlo un hobby sano, e gli hobby quando sono sani si tengono lontani da tante altre cretinate nel quale uno potrebbe cadere, mi limito solo a dire questo. E ciccia, cioè se ti mettessi a fare la somma senza dubbio, però siccome ne hai goduto devi vedere la parte bella, che ne hai goduto, ti è piaciuto e hai trovato soddisfazione e piacere nel portarla avanti. Poi è chiaro che si cambia, cambiano anche gli umori, cambiano gli interessi e l'hobby stesso può assumere un altro aspetto. Dai, sento ancora un paio di vostri passaggi e poi vi dovrò lasciare. Ancora a te Claudio, dai, vai, poi fai girare. Capa, Salvatore, sì, ma infatti è così. No, ma io se non ce l'ho la roba divento pazzo, capito? Io c'ho tutto, ho tutto, non è che mi manca niente, ho tutto, ma non mi va di usarla, proprio non c'è quella passione, capito? Di HF ne ho tre, abbastanza costosi, VEU c'ho tutto, e tutti base, tutti di ultima generazione, e i K ce li ho tutti, cioè c'ho tutto quello che mi serve, amplificatori ne ho due addirittura, uno allo stato solido e uno a valvole, quindi c'ho tutto quello che mi serve, ma non mi manca proprio la passione, non l'ho mai avuta, poi un po' mi era tornata e poi mi è ripassata, capito? E alla fine ho detto basta, non me ne frega più niente, a me piace la 27, me ne sto a 27, non rompo le palle a nessuno e mi faccio i fatti miei tranquillo e sereno, tutto qua, però ho tutto quello che serve per poter fare tutto quello che voglio. ma non ho proprio la passione, capito? Non mi interessa. Avanti, Roberto. Io, interrogativo a Salvatore, che cosa sta utilizzando? Che apparato, che microfono, se lo vuoi dire? Guarda, il come apparato adesso purtroppo non posso usare ancora il baracchino. Come microfono utilizzo oramai da tanti anni le cuffie il sound, le cuffie microfonato, il capsula HC6. Devo fare il codino per usarlo con il mio baracchino. Questo sì. Per il momento sto usando un'altra radio. Ok, vabbè, no, ti ascolto benissimo. Ok, vai Riccardo, io rimango ancora un attimino finché non mi chiamano, che sto aspettando dei panini che ho ordinato e la pizza, e vediamo un po', qualche minuto posso rimanere. Ok, grazie Robè. Volevo dire a Claudio, a quel tempo era uno stipendio? Uno stipendio? Io i soldini li guadagnavo, Ne ho guadagnato tanti soldini, perché io nel 1991 lavoravo alla Saras a Cagliari, dove stavamo costruendo il depuratore della Saras. Ero trasfertista per conto della Snam Progetti del gruppo Eni, non per vantarmi, ma prendevo più di 3 milioni al mese, quindi i soldini li guadagnavo. A casa mia non è mai mancato niente, però l'hobby era quello e mi piaceva, quindi ogni tanto investivo in radio, in tantissime cose, sempre a livello telecomunicazioni. Quindi ne ho comprato tantissime di radio e posso dire che ho tutte le foto delle radio che ho avute, quindi non sono balle. Ne ho avuto tantissime, mi sono tolte tante soddisfazioni. E alla fine mi sono molto appassionato della Kenwood, perché le ho provate tutte, dalla serie, tutte le serie, tutti i vintage della Kenwood, sia HF in tutte le maniere, e non nego che anche in VHF e in UHF ho fatto 20 anni di pirata. Quindi quando sono preso la patente ero abbastanza preparato e pronto per poter entrare a trasmettere, su questo non ci piove, a differenza di qualcuno, nonostante abbia la patente ancora non sa parlare manco l'italiano, si mette a parlare l'inglese. Questa è la mia battuta personale, vabbè. Capito Riccardi? È una passione che ho da ragazzino e quindi sono forse uno dei pochi radioamatori esistenti a Sassaro, in provincia di Sassari, che continua a fare 27 imperterrito, gli altri entrano così a sbalzi, però fa sempre piacere sentirli, per carità. Io ho questa passione, e questa è, non c'è nessuno che me la possa cambiare. Tutto il resto è noia per me, capito Riccardino? Meno male, qualche soddisfazione te la sei tolta. Tante soddisfazioni e tanti soldi per me buttati, perché alla fine non sono serviti a niente. Va bene, avanti Roberto, riprendi tu e fai girare per Salvatore, magari deve andare a cena, dai. Anche io stacco, dai, magari ci sentiamo più tardi, dai, io vado a mangiare. Ciao Claudio, ben sentito, ciao Riccardino, Salvatore, dopo tanto anche a te è stato un piacere ascoltarti, io faccio corretti, poi eventualmente se c'è qualcuno ci sentiamo dopo. Rilancio a Salvatore e aspetto fino a lì, avanti. Sì, questelle. Grazie a voi delle quattro chiacchiere, complimenti a Riccardino per la scelta di venire a sondare questo mondo, vedrai, ti divertirai sempre con la massima attenzione, sempre, mi raccomando. Ok, grazie a voi di nuovo, ciao Claudio, ciao Roberto, ciao Riccardino, Antonio, Daniele e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io faccio pure sì, devo uscire, è un impegno. Grazie di nuovo, salutoni a tutti quanti, prego Claudio. Salvatore, alle prossime, ciao Roberto, ciao Claudio, Marco e a tutti gli altri eventuali in ascolto, ma se me ne sono dimenticato qualcuno, e anch'io faccio QRT, vado in carica e ci sentiamo più tardi, spero di sentirvi più tardi, ciao a tutti, QRT per me. K, riprendo io e vado a seguire. Ciao Salvatore, un piacere averti riascoltato, quando vuoi scambiare due chiacchiere siamo qua e mi fa piacere. Ciao, un abbraccio, a presto, ciao Riccardo, buona cena, ciao anche a Roberto, buona cena a tutti, anch'io seguo. Un saluto circolare anche a chi sta ascoltando qua sul canale 10. Ciao a tutti, buon fine serata, gappa gappa. Avevi Maura, io che stavo provando la mia ora qui, dimmi, guarda qua, stavo tagliando, tu che stai alla partella? Oh, ya. Spero che sta a 4 vati, no? Vale, va, che ti cuci a livello QRM, se tu vai a tu metti in olio, aquí. È lo che è Mercedes, vedi? Bueno, digo, a lo mejor que la ha metido algo ahí a... Aquí que estaba yo probando una cacharrilla, pero esto está listo. Buonasera, qui la Sardegna, avanti, buonasera, cambio basso. Tu e gli spagnoli. Vabbè Marco, ci sentiamo dopo, sì. Nessuno, sono a produttore, sto partendo, cazzo con la nave. Buonasera, buonasera. C'è un pompogno che sta ablando dalla barca veloce che sta ablando e sta partendo per la Valencia e Spagna. Sì, te quiero mucho, te quiero mucho. Io te quiero mucho, ma mucho non, mucho vero non c'è sta. Anthony, oh, buonasera Tino. Vabbè, sono in quel rito, sono appena rientrato. D'accordo, non c'è problema. Marco Conto ci sei. Sei vivo, sì. Attento pomponcino! Attento conciao, attento. Vamos! Attento mi hermano de Mascusiano, l'operatore del Gianni del Terrore della città di Sassari, nord Sardegna. È fresco tu? Cosa c'hai oggi? Ciao Gianni, sono appena rientrato. Niente, ciao Gianni, saluto lì, ben sentito. Saluto a tutti. Ehi, vabbè già, mi faccio la luce adesso, non penso di uscire, dai, mandiamo domani. Che domani intanto sono a casa, magari non presto, però già salvo. Va bene, come tu vuoi. Domani devo farmi la spesa di mattina, dimmi se passi di mattina, di sera, quando vieni. Ah, fai con comodo, quando tu hai finito. Ma io penso che per le 11:30 a mezzogiorno sono a casa. Ah, va bene, allora ci sentiamo. Cavallo, domani mattina faccio la spesa e poi rientro a casa, dai. Esatto, va bene. Andà bene, non c'è problema. Come andava? Che mi ascolti, sì o no? Dimmi, cosa c'è? Tu mi stai ascoltando il fiuto di Alessia. Cos'è che c'è di Zelda lì? Non si comprende nulla. Cosa stai dicendo? Cioè tu mi stai ascoltando il fiuto di Alessia. Ah, se mi ascolti chiaro, sì o no? Sì, ho capito. Non capivo che era tu, mi capisci? Adesso ho capito che il capo. Ok, adesso ci sei. Meno male. Grazie a Dio. Meglio tardi che mai. Non so. Vabbè. Quante ne avete cani adesso? Due, Ari? Non ho capito, dimmi. Ho detto adesso due ne hai cani. Uno, grazie a Dio, basta quella volta pure. Ma basta un altro pure, dopo quello che ci avevi da prima. Ma è morto da un bel tempo. E lì, chiamavi? Davvero, quello che morsicava. Esatto, sì, bravo. Solo a me non ha fatto nulla, te lo ricordi? A Lancino lo morsicava. Lo so. A Lancino anche a cosa addirittura? Anna, bambolina, se ti ricordi. Vabbè. Sentiva forse il dolore del mio cane, non lo so. Boh, questa non so la verità, comunque sia. Dammi il controllo di segnale. Come sta arrivando a te, a casa tua? Oh, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono più del 9.30, sì, e io come arrivo da te? 9.30 altrettanto, uguale. E allora va bene, calma calma, con che appare che stai facendo tu? Indovina, l'ala 87. Ah, che appare, ma l'altro venduto là. Cosa? Quell'altro che avevi venduto là. Ancora no, sto aspettando, devo vedere prima la macchinetta, 50. 50 euro stai vendendo? No, 500 euro. Ah, ecco c'è di D. Perché non vuole quello lì il prezzo, 500 euro. Se no rimane qua a casa. E su Facebook cosa è? Hai fatto male tu io, visto che hai? Di questi due apparati che costano poco, la verità, e costano molto, la verità, poco nel senso, vabbè, sistemati vogliono, penso, perlomeno, giù che giù. Non c'è nessuno lì stasera, io stavo controllando dei messaggi che mi hanno mandato, non c'è nessuno stasera. A quanto sembra, no? Vabbè, quelle ragazze su Facebook, quindi meglio niente. Ah, sono tutte ciospe, cos'è? Non vi ne una che mi ha una solo ne ho visto come si deve. Lascia perdere le cose che è meglio. Mi hanno scritto in due a me. Per carità, guarda. Mamma mia, soldi per una barca, ho venuto, soldi. Gianni. Ciao Danielito, e allora? Tutto ok? Beh, Gianni Ghedo, tutto K. Mezzugai. Già va bene. Giù che giù. La gana di lo fazzini. Non mi sento sollevato, la verità. Cosa vuol dire? Surreale a un certo punto. Ciao ragazzi! Tutti pompando, io sono l'unico, vabbè, non devo dire cogliona, comunque sia, già mi hai capito. Vabbè, già la buscia che tu. Visto la natura di quel di 2000 euro in vendita? No, la verità no. Mi sembra che vogliano 150 euro. E cos'è? La valvola o cosa? A transistor? A valvole! Tu lascia perdere allora, fregatene, c'ha problemi. A me va bene il transistor, come questo guarda. Che pompa, cos'è quello? Cava. Già va bene. Se poi c'ha le valvole andate è un casino. Le valvole ce l'ho io già. E quello là non c'è problema, io ce l'ho davvero uofe, quindi a un certo punto cosa me ne frega a me? Io ci guadagno. Antonio, ma adesso ne ho 5, ce li hai? Certo che ce li ho, anche la pilota se vuoi. Per il Galaxy 1000. Aspetta, non capito, che cos'è, un BV? No, non mi dica, che è quello penso io, che c'è in vendita. C'è un BV, c'è un BV, la verità, ma un bel lineare c'è, a valvole, 200 euro, sbaglio, la verità, mi sembra di averlo visto, un bel giambo, giambo aristocrate. No, questo è un Galaxy 1000, però mi servono 5 valvole. Ce li ho. Fammi provare, se vanno bene te le compro. Vabbè, non c'è problema per quello. Anzi, fa una cosa, proprio per essere onesto io e dare fiducia a te, vieni qua a casa, me le piatti tu e lo proviamo assieme. D'accordo, qual è il problema? Cerca la pilota se vuoi. Cosa dice di avere il linea regola tuo? 200 euro, ma bello mi. Cosa stai vendendo? Nero, preciso identico. Vabbè, io ho fatto un regalo a un amico, gli ho fatto 150. Lo so, ma l'ho visto stamattina io, la verità, la verità non ti dico niente, ma comunque se stamattina l'avevo visto, quindi a un certo punto sto uscendo per quel motivo lì. Che bellino mi come lineare. Adesso mi ricordo quanto mi vuole, mi sembra 200 euro una cosa del genere. Mi sembra, la verità. Boh, non interessa il valgo, avevo anche un 507, quindi non mi interessa. Non... Ok, attenzione, Germany is going to take over number one, e Italy is con il CQ. Germany, ciao Germany! Achtung Germany, Achtung! Oh, va bene, scusa, chi è la più forte tra noi a un certo punto? Italy from Sardinia! Attention my friends, Germany scucci, station Alfa Lima number one, Italy from Sardinia. Sì, Kartoff e Telefunken Volkswagen. Perso. Come ti sei? Vabbè, se vuoi dire niente, mi vedo a ridere. Attention my friends, speak in Sigunder. Non risponde. Ora my friend, speak in Sigunder. Il panito. E beh già, il panito sì. Sto facendo il campionato di basket. Ah, meglio così, sono contento. Ora. Speak in Sigunder. Ora. Speak in Sigunder. Ora. Speak in Sigunder. Arendo Antonello, Radio Conconio, si ascolti qua, da piccola chinoca, poco. Ora. Arendo Antonello Conconio, si ascolti qua, come io. Buonanotte a tutti. Attenzione canale 10, 27.075, Alfa 21 a questa parte, operatore Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Ciao Riccardo. Ciao Robè. Mangiato? Sì, ho mangiato, hanno fatto il polpettone. Ti tratti bene? Sì, vabbè, tu hai preso la pizza. No, vabbè, non io ho preso il capriccio, mi sono fatto il panino. Ah, ho capito. E io da quanto è che non mangio la pizza ormai, perché di solito la facevo il fine settimana, però adesso il fine settimana andiamo in campeggio, quindi no, è da un po' che non la mangio. No, io la mangio minimo una volta alla settimana, se non due. lo so, vabbè, vuoi anche il polpettone, mi andava bene anche quello. Mi stavi dicendo, Riccardi, che poi non ho concluso il discorso del che ricevitore l'hai provato? Sì, l'ho provato, è attaccato al discone. Dimmi una cosa, adesso ho cambiato microfono, con cosa stai ascoltando tu con quell'apparato? Sai cosa stai ascoltando, con quale? Con questo che sto utilizzando adesso, c'è un altoparlante esterno? Sì, positivo. Ma quello piccolino, gli Aesu? Sì, la cassaia Aesu. Non c'era un altro parlantino? Guarda se c'ho qualcosa io di più decente, così riesci ad ascoltare anche meglio, perché quelli, quell'altro parlantino è troppo piccolo e ti fa sentire solo le frequenze acute. Non riesci a valutare bene i segnali quando c'è QRM, senti solo shhh, e magari c'è una voce in lontananza che viene coperta da quelle tonalità acute. Lo so, infatti Salvatore aveva la cassa attaccata e lo sentivo un po' così. Mi volevo prendere quando ho tempo, perché volevo prendermi un altro ricetrasmettitore, e c'è uno che dà anche la cassa, oppure me la compro per conto mio. Non voglio comprare la linea perché c'è la cassa, però c'è, mi sembra un accessori che vende la cassa della linea Kenwood a un buon prezzo. Ma senza prendere quello, già ti cerco qualcosa io, dai, ci sono di quelli amplificatori, quelli piatti surround, Dolby surround, che hanno 5 più 1, un paio di quelle casse già ce l'ho io, te lo metto da parte e vanno bene lo stesso. C'è qualcuno che chiama, avanti chi chiama sul 10, avanti, vabbè non ne auguri, adesso stava chiamando poi si è ritirato, dai, ti do qualcosa, quella la piccolina LSP, io ce l'ho l'83, cos'è? No, l'SP23, poi c'ho l'SP940, l'SP23 non è niente particolare, quella SP940 è molto grande, c'ha un bel altoparlante e c'ha anche dei filtri, tre tipi di filtri c'ha, e funziona. Io infatti sto ascoltando con quello, però c'ho anche delle casse della Sony più o meno quanto quella lì e vanno più che bene. Tanto c'è lo spinottino a jack, mini jack dietro, già ti organizzo io tutto, Riccardo, non ti preoccupare. No, vabbè, non c'è problema. Ho sentito quello del ricetrasmettitore, quello che sto usando adesso, l'ho ringraziato e mi ha detto che ha, non lo sapevo, che anche i filtri, vabbè non mi interessa a me, però anche tutti i filtri è completo. Sì, già è meglio, ma tanto non te ne fai niente, diciamo, quello per certi tipi di lavori, dai, tu per il momento vai più che benedetto. L'unica cosa, piano piano, se capita un microfono un pochettino più performante, così puoi andare alla grande, spingi ancora di più, però ti posso garantire che stai andando benissimo. Ok, come ho detto, ti faccio sapere via WhatsApp a quattro occhi, che stavo pensando, perché mi piaceva, perché almeno con quello esco con più watt, che lo userei tutti i giorni, il 44. Ma anche con questo si possono fare qualche giocattolino, dai, giochino, dai. Per il momento inizia con questo, stai andando alla grande, Riccardo. Poi già ti diamo consigli sia io che Claudio, in modo da non farti buttare via dei soldi, e vai alla grande lo stesso, dai. Adesso inizia con quello e poi piano piano, se si trova un 60, vedrai che cambierà da giorno alla notte. Già è bello anche l'MC60. All'inizio, quando avevo apparati CB normali, pensavo che era un po' così bruttino. Adesso che l'ho avuto mi piace MC60, perché dico, l'MC80 l'ho preso per le prestazioni, però in realtà l'MC60 mi piace di più, perché tipo l'MC80 non mi piacciono le caratteristiche, tipo che, come dire, ha il filo, quello pieghevole, boh, perché ho visto che è molto fragile per altre cose, più bello il 60. Sì, sono due cose diverse. Questo ti piace come modulazione? Sì, già sta andando bene, mi piace lo stesso questa modulazione. Questa è la Dunis, con questo puoi fare tutto quello che vuoi, puoi fare la regolazione, puoi uscire come vuoi. Se prendete, questo è tutto a minimo, guai se mettono a toccare. Ah, ho capito, sì. Ma comunque adesso mi ascolti bene? Sto uscendo praticamente con 20 watt, però quando fischio salgo, adesso quando fischio salgo sopra i 20 watt. Sì, è normale, sono i picchi di modulazione, c'è il segnale non modulato, quando schiacci e non parli non è modulato, quando parli ci sono le modulazioni, i picchi di modulazione e salgono i sali di segnale, normale, e che siano sempre positivi verso l'alto, mai negativi, vuol dire se sono negativi c'è qualche problema. No, già sta andando bene, sta andando. Sì, già sta andando bene, positivo. Poi quando lo proverai in banda laterale ti renderai conto che da zero arriverai a piena potenza con quell'apparato. Comunque penso che sta andando bene adesso. Quanto ce l'ho? Il microdrone è a 2,5, sì, a 2,5. No, sta andando alla grande, no, non toccare niente, va benissimo, poi una voce molto chiara come la tua modulazione, non toccare niente, perché c'è troppa gente che si mette a fare porcherie e poi modulazioni che fanno schifo, non si capisce nulla, guarda tu stai andando benissimo. Poi se a qualcuno gli piace fare rumore, quello è un altro discorso, è come quando parli con un megafono oppure quando parli con la voce naturale, questo è il discorso. Lo so, un po' 70 adesso con questa storia che ci sono come dire molti litigi, ci sono discussioni, non per dire l'eco, la portante, sono dei nani quelli che mettono portante e altre cose questo periodo, vabbè. E comunque Squall'Edison è molto bello, altro babbo che lo stava cercando ha delle buone prestazioni e vediamo, ma è vero quello ha un attacco per il K, quello che ti più o meno l'Edison si chiama Edison, si chiama Adonis, quello lì adesso lo stavo confrontando con il mio, rispetto al mio c'ha soltanto il coso, il frontalino, diciamo la superficie in alluminio, però è inferiore al mio, perché guardate cosa c'aveva di funzioni, quello che c'ho io c'ha funzioni in più, ma il Adonis, il 908, quello è un po' più vecchio del 908, il 908 c'ha tre connessioni dietro, che ci usi, c'hai presente tu la connessione a internet, quando ti collegavi a cavo, quel cavo Ethernet che si collega dietro al computer, quello lì, questo Adonis ha tre cavi, tre posizioni, può attaccare tre apparati diversi, ICOM, IAESU o Kenwood, in contemporanea puoi commutare tre microfoni, cioè tre apparati, perché c'ha tre posizioni A, B e C, per cui non devi fare nessuna connessione, ti attacchi direttamente dietro, quando c'hai una IAESU per dire tac e commuti su IAESU, c'hai un Kenwood, attacchi su Kenwood e non devi fare niente, c'ha quello di bello, poi c'ha tutti up down, compressore, equalizzatore eccetera, c'ha il VFO, lo puoi comandare da lì, e le memorie, ricerca memoria, c'ha tutto, puoi fare tutto con quel microfono. Ho capito, sono sbagliato, non so perché me ricordo Edison e Adonis, hai ragione, sì l'ho visto che è un bel microfono, devo vedere, adesso valuto. E poi c'ha di buono che lo puoi utilizzare con la corrente del coso, come si chiama, dell'apparato, l'uscita alimentata dall'apparato, oppure se c'hai un apparato che non c'ha l'uscita coso, a 8 volt o a 9 volt, puoi utilizzare la batteria come un MB+4, MB+5, c'è anche la possibilità di inserire la batteria e c'è nell'indicatore, ti dà la modulazione, i picchi di modulazione, oppure puoi vedere il livello del coso, del come si chiama, della batteria, e poi quando parli si illumina di rosso, c'è on air, appare il LED, è bello anche per quello. Ho capito, sì, ma più o meno quando è cambiato il segnale da prima che ero con il Colt e adesso con questo, con il K? Adesso sei 9+20 e passi a 9+25 con i picchi di modulazione, mentre con l'altro eri 9+15 e passa via a 9+20. C'è da dire l'altro 43 che avevi prima, che era più potente, con quello arrivavi a 9+30. Ah, ho capito, però non so se è vero, mi hai sentito tu, io prendo per buono, che mi hanno detto che sembra quando ti metti la cartavellina davanti che non si capisce niente. Lascia perdere, stai uscendo benissimo Riccardi, il discorso è tutto dipende da cosa ti ascoltano, con cosa ti ascoltano, ti ripeto, non è una modulazione eccezionale, però è buona, se scala da 1 a 10 ti do 7 come modulazione, non è un 10, però 7 è un'ottima modulazione, l'avrebbero voluta tanta gente, per cui stai uscendo alla grande, non posso dirti niente, secondo me gli manca un po' di amplificazione, qualche regolazione di tonalità, però stiamo parlando di un altro tipo di microfono, se tu metti il suo microfono con la radio è uno spettacolo. Ah, ho capito, sì, l'ho visto, che quello ha anche tante funzioni che ho visto dalla chiamata, ma non ho capito se fa la chiamata su CAL, che cosa ti fa? Scusa, non faccio fare la chiamata su CAL, ma di cosa stiamo parlando, dell'Adonis? No, scusa, mi sono perso, sul 43, quando fai il click CAL, come te la fa la chiamata? Non ho capito cosa sta dicendo, vuol dire CAL. CAL vuol dire ascolta. No, CAL vuol dire C-A-L-L, vuol dire chiamata. Ma dove c'è scritto? Ma c'è un tasto a parte? Sì, c'è un tasto sul frontale con scritto CAL. Ah, aspetta un attimo, sì sì, quello se schiacci, quello ti dà senza microfono per vedere se stai uscendo. Ah, ho capito. Io c'ho Send, mi appare. Tu ce l'hai tanto Send? No, adesso non ce l'ho davanti agli occhi e devo vederlo bene. Almeno se stiamo dicendo della stessa cosa, hai provato? No, no, senza schiacciare il microfono, schiaccia quel tasto lì, avrei se fare la lancetta. Ecco, l'ho trovato, ce l'ho qui. Praticamente ho il primo tasto CAL, WFO, MR e PF. Aspetta, volevo guardare nell'immagine che volevo vedere. MR sono i muri. Aspetti, mando la foto. Boh, te l'ho mandato, sta caricando. Ehi. È arrivato? Aspetta, guarda, sì, però aspetta che la guardi. Ah, ma tu stai parlando sul microfono, cavolo, io pensavo stessi parlando sopra l'apparato. No, io sto parlando del microfono. Allora, call è per il coso, per ascoltare. UFO, quando schiacci quello lì, ma non è di quell'apparato lì, non c'è niente a che vedere questo microfono, perché tu non c'hai il tasto WFO. Quando c'è il tasto WFO, passi dalle memorie, siccome c'ha dalle memorie l'apparato, quando schiacci quello lì diventa a sintonia continua, puoi cercare il coso. MR ricerca memoria, vuol dire, l'altro cos'è, che lettera è, non riesco a capire. Cioè, CAL, WFO, MR, PF. Questo PF ce l'ho anche io qua, PF, infatti c'ho call, WFO, MR, PF, lo sai che non lo so cosa vuol dire PF, se non è per l'ascolta, bisogna vedere, bisogna fare prove a vedere cosa è. Non lo so, non l'ho mai utilizzato, c'è anche nella Duni, in alto c'è scritto call, WFO, MR e PF, e poi sotto c'ho up, down, on air, con i LED, poi ci sono tutti equalizzatori, compressore, PTT, output level, equalizzatore, le uscite per tre apparati diversi. Quello non è di questo colore, quello lì è un microfono di un coso, di un VHF, questo qui non c'ha niente a che vedere con questo tipo di coso. PF però non lo so sinceramente, lo sai? Ho capito, non lo so allora cos'è, bisogna vederlo, c'è molto a scoprire su queste radio. Sì, quello è un microfono molto più recente, degli anni 2000, ecco il microfono lì, perché il suo originale, diciamo, c'è l'M43 dovrebbe essere, se non sbaglio. Sì, scusa, ho sbagliato, l'MC43 è una cosa diversa, io che l'ho scambiato per un MC43, me lo sono andato a guardare ed è diverso, ho sbagliato io. È un'altra cosa, vabbè, comunque già va bene lo stesso quello. Ma tu l'hai provato quel microfono su questo apparato? Sì, l'ho provato, mi te lo faccio risentire, aspetta. Quello che mi hai fatto sentire stasera, Sì, aspetta, lo faccio risentire. Ehi, avanti che chiamo. Non ti ascolto bene, dove ti trovi? Sto a parlare. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio. Fai, tieniti più vicino alla bocca, però al microfono. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio. Adesso sono vicino al microfono. Stai strappando di brutto, prova a allontanarti un po'. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio. No, non va bene, è troppo cupa, ci sono problemi di impedenza, tutto, non mi piace. Così, aspetta, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio, sempre brutta. No, così è molto meglio, non è amplificata, però è chiara, dai, va bene, è molto più bassa dell'altra, del TAN. Lo so, vabbè, però se non avevi un microfono, fai un esempio che uno si è ordinato il microfono con la radio, non gli è ancora arrivato il microfono, che se l'era ordinato a parte, però adesso può usare questo. Sì, assolutamente, no. Tutti i radioamatori, la maggior parte, hanno iniziato sempre con i palmari. Ce ne sono pochi che poi sono passati direttamente agli amplificati. Tutti all'inizio erano sempre con i palmari. A me non mi piacciono neanche al regalo. Ne ho una quindicina di microfoni, forse anche di più palmari, ma attivo ce n'è uno solo, quello sulla lampada al foto. Tutti gli altri sono tutti da tavolo. No, lo so, anche io li ho messi tutti in una scatola. Sto facendo connessioni per... come si chiama, per tutte le stazioni base, e non ne voglio più sentire palmare, li ho messi dentro una scatola e sono conservati. Riattacca il TAN. Ehi, riattacco il P2. Sono tornato io. Ehi, dimmi una cosa, così vediamo se c'è anche lo smitter funzionale, se è taratto a 300 microvolt o a 150. Quanto ti arrivo di segnale? Un'altra prova che stavo guardando, però hai fatto un passaggio corto. 1, 2, 3, prova canale 10, 27, 0, 7, 5, questa è la frequenza, avanti per il controllo. Il controllo sta arrivando a 9.30, radio 5. Quindi è tarato a 150 microvolt, già va bene, dai, non c'è problema. 9.30 addirittura ti arrivi. 9.30, vabbè, su 9.60. Non è poco, già è tanto, tu mi stai arrivando 9 più 25, ok, con i picchi naturalmente. E a portante muta, guarda quanto arriva a portante muta. A portante muta arrivi 9,25. Con i picchi arrivo 9 più 30, già sta andando bene là, questo giocattolino. Cosa ti volevo dire, altro non ce n'è. Vabbè, quando abbiamo detto, quando ci avrai coso, ci adatterai a un microfono dedicato per quel tipo di radio, che va benissimo. Sì, lo so, comunque, ma beh, il segnale non cambiava con questo microfono, o sì? No, non cambia niente il segnale, può cambiare se disinserisci il processore, prova un attimino, fai col processore, mi dici, questo è col processore e questo senza, così noto le differenze. Adesso la modulazione è con il processore inserito, e adesso la modulazione è con il processore disinserito suo. La nostra musica. Lasciaci l'inserito, dai. Ok, lo lascio inserito. No, perché hai detto che con questo microfono calmare arrivavo 9.30, boh. No, non è vero, non cambia niente. Allora, non c'entra niente il microfono con l'uscita della potenza. La radio ti può aumentare o diminuire, però la potenza rimane invariata. Il microfono non ti cambia la potenza, ti cambia soltanto l'intensità della radio. Per dire, è come che tu parli a voce bassa oppure alzi la voce, però il segnale non cambia niente col discorso del microfono. Ma sto pensando, non so cos'è, che di solito quando cala la notte mi abbasso il segnale, anche quando avevo la Grand Plane mi abbassavo di segnale, quando avevo l'antenna con il colt mi abbassavo di segnale la sera, non capisco il perché. Vabbè, c'è da dire che prima c'avevi l'antenna, quella che era, i cavi erano quelli che era, adesso un cavo buono, diciamo l'umidità influisce tantissimo sulla propagazione del segnale, si attenua un pochettino, si bagna l'antenna, per cui cambia leggermente di impedenza, ci sono tante cose che ti fanno variare cosa, ma adesso sei costante come segnale, prima quando c'avevi quella Grand Plane, quella è molto influenzabile dalle condizioni atmosferiche. Ho capito, sì, vabbè, perché avevo una mini Grand Plane con un cavo Reggio 58. E certo, tu ne hai cosa vuol dire mettere una 5 ottavi rispetto, è come che c'è dentro casa un antennino e poi te ne vai fuori a ascoltare con lo stesso apparato fuori con un'antenna esterna, la stessa cosa 5 ottavi con una mini Grand Plane, quella è un quarto d'onda, per cui le dimensioni contano tanto sulle antenne. Lo so, infatti quella mini Grand Plane la uso, la potevo usare per fare radioascolto quando tipo ce l'ho attaccata su altro, boh, non lo so, oppure se voglio fare prove, quella me la metto sul tetto e mi metto un'altra blizzard, mi compro il mese prossimo e me la metto sul tetto. La gabbia tiene sempre, diciamo, la sanno sempre comodo, un'antenna di scorta, se è già cablata col cavo e tutto non fa mai male tenerla di scorta, magari per fare delle prove in certe situazioni che magari non ti interessa avere grandi potenze irradianti, la puoi usare anche così, anche a me qualche volta mi capita, attacco l'altra antenna, anzi ne ho tre che possono andare, c'è quella multibanda, quella che fa da 0 a 30 e poi c'è quell'altra che fa da 25 a 1300 o 1400, se non mi ricordo, ogni tanto provo anche quella. Oh Robè, ma l'hai mai sentito il ricevitore Radal? Racal, sicura, non Radal, Racal. Racal, cosa ne pensi? Sono dei grandissimi ricevitori, dipende dal modello, ma sono grandi apparecchi. Quello che mi ha dato il 43 me ne ha proposto uno. E che modello è? Me la devo guardare, mi manda le foto. Vabbè, Racal fa anche apparecchi che costano migliaia di euro, non stiamo parlando di giocattoli. Poi magari ci sono quelli vecchia generazione, andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Sono ottimi, grandissimi ricevitori. E adesso vedo, com'era Racal? Eia. Vediamo se vuole entrare qualcuno, canale 10, 27.075. Racal facevano apparecchi professionali per uso navale, eccetera, su un po' su internet e ti rendi conto cosa c'è. Non ho capito, scusa, mi stava parlando mio padre, ti ha sovramodulato. Tuo padre? Sì, mi ha sovramodulato, ti ha sovramodulato in verticale. Ciao, Robè. Cos'è questo rumore che ho sentito? Oh, forse perché io ho messo il lock al microfono e quando lo tolgo fa uno scatto. Non metterlo mai, se vi consiglio, non utilizzarlo mai il lock, che poi te lo dimentichi, rimane bloccato, non te ne accorgi, tu sei convinto che è staccato e poi magari rimane in trasmissione, magari c'è un problema di rientri e cose del genere, fai danno. Mai usarlo il lock, mai, io mai usato e mai ne userò, sempre il PTT, poi come molli sei sicuro che è mollato. Ciao. Ti sta salutando Babbo. Ciao Romè. Ciao Sergio, ben sentito, sono contento per la radio, bellissima, bella modulazione. Adesso ho detto va bene così, per il momento rimanete così, poi se c'è possibilità un 60 avete ancora il top del top, o se no un Adonis, ce n'era uno a 50 euro, però senza il cablaggio, bisogna farselo fare a qualcuno e non è molto semplice, perché mettere una tempatura su quel tipo di coso non è uno scherzo, perché dietro c'ha gli alloggi a crimpare, tipo le reti internet, ed è un po' complicato da fare, perché ci sono un sacco di fili e filettini molto sottili. Ho capito, ma forse sarà più utile usare qualche, come si chiama, qualche raccordo che viene utilizzato per aggiuntare i microfoni senza manometterli. Allora, vedono già i cavi già intestati per le Ken, Voodoo, Yaesu, Icom, eccetera. Col microfono da noi c'è la possibilità di utilizzare tre apparati diversi, con tre connessioni diverse. E dietro c'è questo attacco tipo quelli che usi i telefonici, per reti internet. Non lo puoi modificare perché sono troppo sottili. Quella parte posteriore del microfono è standard, non puoi toccare niente. Io quando l'ho acquistato io me l'ha già intestato il venditore, mi ha detto che tipo di apparato ci avevi, me l'ho fatto fare, perché non saprei da che parte iniziare sinceramente, perché le crepature me le faceva un amico e a ritrovarlo sarebbe un problema. Sicuramente c'è gente che le sa fare.